As I won't give it up, e fai bene proprio Simply Red on Radio Kiss Kiss. Good morning everybody, my name is Fergal Kavanagh. On controls c'è l'ingegnere Giancarlo Raiola e saremo insieme fino alle ore 13. Pippo Pello this morning non c'è, però non vi preoccupate, domattina sarà su questo onda broadcasting for you. Allora, io sono irlandese se non lo sapete, quindi credo che sarebbe il caso di mettere un disco da un compagno mio, un compagno di nazione almeno. This is Ronan Keating, ex-Boyzone, e do solo un pezzo scritto con Greg Alexander. It's Loving Each Day on Kiss Kiss Network. Ciao, ciao, mi gustas tu, proprio la felicità dell'estate che stiamo trasmettendo questa mattina on Radio Kiss Kiss Network. Allora, lezioni sono passate ormai in Italia, però non per tutte le città, sembra che dobbiamo tornare, anzi dovete tornare alcuni di voi per votare un sindaco sabato prossimo, e anche in Inghilterra ci sono le elezioni, però un'iniziativa di un proprietario di un locale, proprio bello, ha deciso dentro il locale mio nessuno può parlare di politica, se lo volete parlare diventate multate, cioè bisogna pagare 10 sterline se volete parlare di tasse, cioè 30.000 lire, poi 20 sterline per nominare la parola elezione, 60.000 lire, poi ogni candidato che entra nel locale deve pagare l'equivalente di 15.000 lire, bello questa cosa. Allora adesso ascoltiamo Jim Kerr insieme a Franco Battiato. Anni esce con un nuovo singolo e quest'anno è proprio onesta come signorina, dice non voglio i tuoi soldi, voglio solo, anzi non voglio il tuo amore, voglio solo i tuoi soldi, bello questo. E addirittura questo è stato la causa, diciamo, di più rotture di matrimonio secondo un sondaggio pubblicato ieri. Il marito italiano dice che le donne non le sta dando più le coccole e questo è il motivo per cui si lasciano, e questo è il motivo più che in incompatibilità di carattere o il tradimento. E quindi ragazze, ragazze, signorine, tornate, andate verso vostro marito stasera e datelo un bel bacio, dillo che lo vuole benissimo, anzi che lo ami, e così ci sarà l'amore in tutta l'Italia. Allora, addirittura dall'amore è arrivato questo messaggio da provincia di Avellino, dice sono innamorato pazzo, sono papera. Allo papera, allora spero che ti stai divertendo con la musica di Kiss Kiss questa mattina. Oppure per Manuela che ci ha scritto, poverino non si sente bene e deve studiare, allora in bocca al lupo, il nostro GSM Box, vi le do il numero dopo questo disco di Neffa, la mia signorina. Glasgow, Scotland, it's Texas and Inner Smile. Allora ho detto vi do il numero dell'SMS Box, 348-661-9461, però ovviamente siete già in tanti che ce l'avete, perché alcuni messaggi sono già arrivati. Uno in particolare, chi è questo tipo che avete messo? Che fine ha fatto pelo contro pelo? E che ti posso dire? My name is Fergal Kavanagh, vengo dall'Irlanda, c'ho un certo numero di anni, non lo voglio dire in onda, e mi fa molto piacere essere qua in Italia con voi. Domani tornerà pelo contro pelo, che Pippo sta fuori adesso in questo periodo, però don't worry, tomorrow he'll be back. Here's Lisa Stansfield. Il problema dell'inquinamento è un grande, grande problema, soprattutto nel South Pacific, dove ci sono tanti, tanti problemi dell'olio che esce da qualche nave o qualcosa. Comunque sembra che hanno trovato qualche soluzione per proteggere i pinguini che sono lì. Allora, hanno lanciato un appello l'anno scorso per la gente di fare un maglione di lana a ferri magari, e sono arrivato più di 1000 piccole maglioni alte 40 centimetri che coprono i pinguini dal collo ai piedi, e perciò loro non si possono pulire ed inguaiare tutto questo olio. Questa notizia è proprio carino e ci fa piacere che salverà i pinguini nel South Coast of Australia, sull'isola di Tasmania. Allora voglio salutare a LAK, LAK, dice ciao Kiss Kiss, io amo ancora tanto Alf, il mio ex, non lo dimenticherò mai, un bacio. Allora questo è per te, it's Janet Jackson. Aliante, this Monday, anzi this Tuesday morning. Allora, messaggi, mi dai qualche indirizzo nella tua dolcissima verde Irlanda? Sono anni che sogno di andarci. C'è ancora il delfino nel baio di Dingle? Certo che ci sta ancora il delfino, il suo nome è Funghi. Allora, beato te che vieni dall'Irlanda. Un altro messaggio, grazie. È sempre stato il mio sogno andarci, ma non posso. Mi dispiace. Comunque sei simpaticissimo. Quando torni mi porti con te. Va bene per questo, sicuramente sì. Thank you very much. Gino Vannelli, un italo canadese che è famosissimo. You're listening to Radio Kiss Kiss Network. My name is Fergal Kavanagh. Saremo insieme fino alle ore 13 con l'ingegnere Giancarlo Raiola on controls. Allora, Robbo, grazie del tuo messaggio. Tu dici: anch'io sono innamorato di chi non lo so, ma quando lo scoprirò ve lo dirò. Grazie. Poi tu hai fatto questo commento: perché non fate un concorso per chi crea un pezzo dance migliore? Allora, questo concorso non le abbiamo, però io di domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 faccio un programma di nome Remake. Praticamente lì proponiamo tutti i remix oppure cover dei vecchi brani che sono i classici. E magari se voi avete la possibilità, tu Robo o qualunque ci sta ascoltando, di remixare un pezzo, mandatecelo a Kiss Kiss attraverso o la posta oppure a posta elettronico al mio indirizzo che trovate sul internet, versione MP3 chiaramente sull'email. Ok, here's Faith Hill on The Way You Love Me. Hill, all the best of American music. Io infatti faccio I Love America ogni sera dalle 21 alle 23 e quindi mi sembra preparatissimo su questo. E poi addirittura dopo I Love America ogni sera è la serata di Meaty Kiss, la notte dei Meaty, che si fa dal lunedì a giovedì, quando parliamo di tre grandi personaggi che sono entrati a fare parte del nostro immaginario collettivo, e lo faremo coinvolgendo in diretta gli ascoltatori che potranno così esprimere la loro opinione, aiutandoci a raccontare le storie dei protagonisti della serata. Insomma, cerchiamo di capire cosa si nasconde dietro i miti di ieri e di oggi. Per partecipare basta prenotarsi chiamando al 081-631-631 oppure al 081-546-1212 o mandate un'email alex@kisskissnetwork.it. Questa sera si occupiamo di Matrix, il film, Britney Spears, Christina Aguilera e di Marilyn Monroe. Una bella serata stasera alle 23 with Anna Giulia. Ma chi è questa Anna Giulia, voglio sapere. Allora, prima ho letto dei messaggi delle persone che sono appassionate all'Irlanda, da dove vengo io, e a proposito dell'Irlanda, al momento abbiamo un personaggio mitico proprio nel nostro paese, il president, ex president Bill Clinton. È stato lì domenica a giocare a golf e doveva finire alle 4, però ha deciso di partire da Kerry alle 6 perché voleva continuare a giocare a golf lì. Poi oggi si trova a Belfast, dove troverà una laurea di onore. Però la notizia sua è che sembra che lui vorrebbe diventare un astronauta, andare in spazio. Ma Bill è uscito nel 1989, che era considerato un comeback, cioè un ritorno per Madonna, e a pensare che adesso nel 2001 è sempre attivissima. Bella proprio. Allora, messaggi arrivati al 348-661-9461. Non chiedere alle foglie di non muoversi se c'è vento, non chiedere al mare di non muoversi se non c'è acqua, non chiedere di non ballare se non c'è Kiss Kiss. Procolo Ottavo Nano di Tor Saracena, grazie tantissimo. Allora, a proposito di ballare, questo è un grande pezzo che facevo passare quando facevo Southside, adesso Elisa la fa, è bello proprio. Impegnatissimi in questi giorni preparando per il loro tour estive che copre tutto gli Stati Uniti, the whole of America, e pure un special televisivo che fanno sul CBS. E quindi, ragazzi, tutte quelle voci dei loro scioglimenti erano solo quelli, solo voci, non vi preoccupate. Allora, messaggi da Pucci Pucci, dice: le cortese attenzione di signor Mimo, sei un non te lo posso leggere, ma ti amo ugualmente. Questo da Pucci Pucci. E poi Kiss Kiss, non è da tanto che ascolto la vostra radio, ma mi sa che ho fatto la scelta giusta. Un saluto a tutti i panettieri e tutte le donne d'Italia, grazie. Non l'hai fermato. E poi Angie, grazie del tuo messaggio, dice: mi manca Pippo, ma anche tu sei simpaticissimo, thank you very much. E vai che sei grande, un ti voglio bene all'amore mio Letterio, che è a scuola. Si potrebbe ascoltare una canzone, questo è per te. Allora, fidati di me, sono io, sono Fergal, lo sapete, no? It's Laura Pausini. Laura Pausini, un'artista italiana che sta avendo un successo enorme in tutto il mondo, quindi complimenti per lei. Allora, Mary, grazie del tuo SMS, volevo sapere quando partiamo per l'Irlanda. Grazie perché mi date la grinta e la gioia di vivere con la vostra musica che arriva veramente in fondo all'anima. Oh, questo è un bel messaggio proprio. 348-661-9461. And Mary, here's Phoenix and Too Young, All For You. Super League e REM con il loro nuovo album Reveal, e loro hanno scelto un modo un po' strano per promuoverlo: stanno andando in giro a fare i concerti gratis. E bravi loro, infatti giovedì scorso si trovavano a Montreal, anzi a Toronto in Canada, dove hanno suonato un concerto gratis all'ora di pranzo per 25.000 persone sotto la pioggia. Bello questo. E poi questo era giovedì, venerdì si trovavano a New York, dove hanno fatto un concerto molto intimo, solo 30 c'erano nella folla. Bello questo concerto, vorrei esserci. Ma pure Lionel Richie ha avuto un brano di nome Angel. Che facciamo? La facciamo sentire dopo? E perché no? Comunque nel prossimo ora. Allora con questo voglio salutare a Mary. Dice ciao Kiss, dite al mio amore Gianluca che mi manca tantissimo e le amo ogni giorno che passa sempre di più. È un bel messaggio Gianluca, questo viene per te, do Mary. Ok ragazzi, un po' di notizie appena arrivato. Sappiamo tutti quanti che Venezia è in pericolo di affondare, però un studio della Global Change Research Program statunitense rivela che pure l'alzamento del livello del mare può anche far affondare New York e in particolare Manhattan. Ma siamo tutti quanti per finire sotto l'acqua in questo mondo, è strano proprio. Anyway, here's Brando and La Mia Vita. Ecco, prima di mezzogiorno it's Brando e ci racconta della sua vita, il pezzo si intitola La Mia Vita. E ragazzi, com'è la vostra vita al momento? GSM 348-661-9461. La mia vita si sa abbastanza bene, sarebbe meglio chiaramente se uscisse al sole, ma che si può fare? Prendiamo una piccola pausa per il news attuale e corrente. And the Supremes, it's tribute, un bel tributo a the Motown sound from the Pasadenas. You're listening to Kiss Kiss Network. Poco dopo mezzogiorno ci abbiamo Giancarlo Raiola on controls, Aurelia ci sta anche, my name is Fergal Cavanagh, saremo insieme fino alle ore 13. Allora un po' di notizie che arriva dall'Australia, sembra che Nicole Kidman ci è tornata per la prima volta da quando ha lasciato Tom Cruise, e quindi questo è un segno di ripresa per lei. E le pettegolezze dice che forse sta facendo una storia con l'italiano Fabrizio Mosca, e chissà se è vero o no, il produttore di 100 passi, però auguriamo la felicità per lei e per lui chiaramente. E a proposito dell'Australia, finalmente ci va un mito a fare il suo primo tour lì. Robbie Williams il mese prossimo sarà lì a fare il tour, come ho detto, per la prima volta nella sua carriera. Here he is on Radio Kiss Kiss with Let Love Be Your Energy. Angel dai Shaggy, ho detto vabbè, ascoltiamo il stesso brano, anzi stesso titolo di Lionel Richie, That's Angel. Un brano completamente diverso comunque. Allora Max il cassiere ci ha scritto e volevo salutare Adelia e a Maria, e ha detto non correte troppo se no vi stancate, questo è importante. Poi Rita, saluto a te, ti volevo dire che hai una bella voce, forse Kiss Kiss grazie a Rita, e oggi mi dicono è Santa Rita, quindi questo di Alex Pretty è per te. Alla serata io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, quindi se esce in coppietta, bello questo. Allora grazie del tuo messaggio, sono un boy che segue la vostra stazione quando posso. Vorrei dedicare Stella Gemelle di Ramazzotti alla mia metà che si chiama Angie, che è tanto fantastica, e grazie tantissimo per questo messaggio, però purtroppo non ti posso accontentare con Ramazzotti. Ti andrebbe bene Depeche Mode? Spero di sì, perché here's Dream On. E on Radio Kiss Kiss Network. Allora un po' di notizie che arriva dall'Olanda. C'era un canguro che è stato trovato in un bosco olandese. Allora, un po' di sorpresa trovare un canguro dentro un bosco, ma che ci faceva? Perché un canguro è un animale australiano. E allora la polizia hanno lanciato questo appello. Di chi è arrivato un messaggio? Oh, è il mio, è scappato da una gabbia un anno fa. Però purtroppo non volevo dire niente a nessuno, perché non è una cosa molto piacevole perdere un canguro. Invece il canguro è sopravvissuto tutto questo tempo a mangiare l'erba che ha trovato dentro il bosco, praticamente le stesse cose che mangiava dentro la gabbia, e adesso è tornato a casa. Here's Jerry Halliwell adesso, e questo viene dal suo album. Una rivista inglese ha detto che è il peggiore album mai registrato. Quando hai imparato di suonare la chitarra nella Summer of 69, proprio un gran bel pezzo, e chissà se lui ha ispirato ad altri a suonare la chitarra con questo pezzo, boh, non sappiamo. Allora messaggi che sono arrivati 348-661-9461. Voglio salutare a Mary, non lo so se è un terzo Mary o se è un Mary di prima. Comunque dice: ognuno vede quello che io sembro, ma poco sentono quello che io sono. Cosa sono? Una persona che vuole amare ed essere amata senza limiti, senza paure. Allora in bocca al lupo, Mary, con la tua ricerca. Ciao a Simo e Steffi che hanno scritto, hanno detto siete fortissimi, thank you very very much. E poi adesso altri messaggi da leggere. Non vedo il mio boy da quasi 3 mesi perché è a Palermo ed io a Napoli. Mi manca tanto Dolerio, ma vai che viene l'estate. Un forte abbraccio, questo è Angie, che se è un cover tale quali per me, almeno auguri di Billy Joel, un brano degli anni 80, però grande grande successo per i Westlife. Allora, messaggi che sono arrivati. Ciao, mi chiamo Carmela, leggete il mio messaggio perché è importante, siete grandi, come farei senza di voi. Un saluto a mia più cara amica Miki e un saluto alla zia Coco, grazie Carmela. E poi ciao, sei nuovo? Nuovo, insomma, è la prima volta che faccio mattina, però sono già da chischisto un po', faccio la sera, I Love America dalle 21 in poi, and my name is Fergal, by the way. Vado in viaggio di nozze, ma mi dai l'indirizzo? Allora, il nostro indirizzo è KissKiss Network, via Scambati 61, 80131 Napoli, così aspettiamo la tua cartolina. Grazie Angela, un chisto a tutti e un bacio particolare al mio ciccio. Lo confesso, sono colpevole, ho acceso la radio da poco, ma dov'è Pippo Pelo? Rispondetemi. Ok Pippo, oggi non potevo venire, ha chiesto di me di venire e perciò eccomi qua, però non vi preoccupate, Pippo tornerà domani all'ora predefinito alle 10 di mattina. No problem, as long as you're listening, it's George Michael, Mary J. Blige and us. Uomo che ha perso il suo cognome per strada, dove l'ha messo? Non lo so, eh? Si chiama Daniel, Daniel cosa? Non ci vuole dire. Comunque il brano si intitola Imparando, comunque magari imparerà a firmarsi bene. No, sto scherzando. Comunque ragazzi, vi piace leggere? Non lo so, io sono un grande appassionato del libro, leggo sempre, cioè c'ho sempre un libro in mano, non quando sono in onda chiaramente, però quando mi sto girando, sto riposando, bello leggere un libro. Però non lo so se sarò lì a leggere l'ultimo libro famoso uscito in Inghilterra, praticamente è scritto da un ragazzo che ha solo 2 anni, vabbè, non è stato scritto da lui, è stato scritto da qualcun altro nei panni suoi. Questo tipo è famosissimo, si chiama Brooklyn Beckham. Allora, quando sentite il cognome lo riconoscete, è il figlio di David Beckham e Victoria Spice, che adesso ha pubblicato il suo diario segreto dal 4 marzo 1999, il giorno in cui è nato, fino al 18 marzo 2000, il giorno in cui il padre si è rasato i suoi capelli. E quindi un grande successo per lui, immagino. Here's Lavania. Conclude questo programma, questo appuntamento stamattina, però prima di andare voglio leggere un paio di messaggi. Il fiore dell'amore è la dolcezza, il fiore del dolore è la passione, il fiore della mia vita sei tu, amore per l'eterio. Da Angie, grazie di esistere, Kiss Kiss, e grazie Angie. Poi per fortuna ci siete voi a rallegrarmi, dato che il mio lui è partito. Vorrei ascoltare una canzone, mi dispiace, non ti posso accontentare perché è l'ora di andare. Comunque grazie Manu, e che volevi dedicare questa canzone a John Luigi. Allora ragazzi, veramente il momento è arrivato di andare. Voglio ringraziare Roberto Bottone che ha appena preso i controlli e continuerà con voi questo pomeriggio. Ringrazio a tutti voi, a Pippo Pelo che tornerà domani. This is Fergal Kavanagh saying appuntamento alle 21 per I Love America questa sera.